stato un passo breve, tutto è stato grande, immenso, forte, lieve. Nella mia vita c'è un'insolita gioia che sa chi si comprende, come attraverso dei gesti di sempre. Poi la fiamma si spande e illumina il tuo sguardo e quello che nasconde. Da ieri tu sei diventata grande e sento che tu cambi questa mia esistenza nel riportare in me aria di adolescenza. Vivendo alla giornata non conoscevo che un'esistenza vuota, ma adesso accanto a te io scopro la mia meta segreta di vita quieta. Da una vita scura fatta di ansie, dubbi, noia, lecci e mura, questa felicità mi servirà da guida, superi i sentieri del tempo e mi riporterà fuori dell'ombra. E un nuovo mattino che non è stato mai per me così sereno, se non sapevo più che fare della vita e non dormivo mai per vivere di più. Ritrovo il gusto di sognare e voglio offrire a te la gioia che mi dai come una rosa, come una rosa se lo...